Oggi è la domenica tredicesima del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo che noi possiamo leggere, se vogliamo, anche sulla scia della luce della festa di ieri, quella di San Pietro e Paolo, e anche della memoria di oggi che lascia posto alla domenica, che è la memoria dei primi martiri della Chiesa romana. Così la Chiesa non solo festeggia Pietro e Paolo che furono martirizzati nell'anno 67 circa, sembra, no? Sotto la persecuzione di Nerone, ma anche poi il giorno dopo pensa e celebra tutta la folla, diciamo, di cristiani che in quel tempo hanno donato la loro vita in obbedienza alla fede. Ecco, allora Gesù nel Vangelo che leggiamo oggi dice: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, quindi ha un riferimento esplicito alla passione e alla croce, a come Gesù stesso parlava della sua croce, no? Quando sarò elevato, quello è il Vangelo di Giovanni, ma questo è il Vangelo di Luca. Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. E Gesù prende questa ferma decisione e, se non vado errato, questo è il Vangelo nel quale il verbo greco dice qualcosa come indurì la faccia, no? Nel senso che era proprio molto deciso e lo si vedeva anche nel volto, no? Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. È un episodio molto simpatico questo, perché da un lato fa capire come Giacomo e Giovanni, a parte che hanno questo carattere impetuoso, no? che gli ha guadagnato da parte di Gesù quel soprannome i figli del tuono, e dall'altra parte anche fa capire come hanno, diciamo, consapevolezza che stanno vivendo una storia divina, una storia soprannaturale, e che quindi se chiedono fuoco dal cielo e magari il fuoco arriva davvero, cioè si sentono molto molto potenti, e molto potenti evidentemente a difendere Gesù, no? Dalla parte di Gesù, però evidentemente sbagliano misura, no? Sbagliano il tempo, sbagliano tutto, cioè, praticamente, e poi non hanno problemi a raccontarlo, e loro, gli altri, in modo tale che poi questo aneddoto arriva a San Luca o al redattore di questo Vangelo, insomma, a chi ha poi, insomma, ed entra nel Vangelo per nostro insegnamento, no? Quindi Gesù li rimprovera, quindi questo significa che Gesù appunto è nei confronti anche di chi non lo comprende e non lo accoglie, è però molto liberale, no? Cioè li lascia scegliere liberamente se accoglierlo o no, e non fa scendere fuoco dal cielo per consumarlo. E quindi veramente crede nella nostra libertà e conta sulla nostra libertà, perché noi, dice quel famoso documento del Vaticano II che si chiama Dignitatis Humanae, no? Sulla libertà con cui noi dobbiamo accogliere la parola di Dio, l'insegnamento di Dio, insomma la fede, che la verità si impone solo con la forza della libertà stessa, no? Non la si può imporre con la forza. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: "Ti seguirò dovunque tu vada." E Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo." E poi ci sono altri tre episodi in, no? Questo Vangelo di questo genere, no? Cioè, caratteristiche della sequela di Cristo, no? Come bisogna seguire Gesù, come, ecco, e li leggiamo tutti insieme, così poi ne parliamo con il Signore nell'orazione per quanto riguarda la nostra vita. Un altro disse: "Seguimi", no? Quindi nel primo caso è uno, mentre cammina per la strada, un tale, no? Si appassiona del fatto che Gesù passa con i suoi discepoli e vuole anche lui seguirlo, no? Ha sentito forse le sue parole: "Ti seguirò dovunque tu vada", no? Guarda che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, no? E il secondo è invece è chiamato da lui, no? E quindi vedete, sono situazioni diverse, ma costui rispose: "Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre." Gli replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio." E un altro disse: "Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia." Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio." Ecco, senz'altro questi insegnamenti di Gesù creano tutto un clima in coloro che lo seguono, un clima di totale dedizione, no, a Gesù, e che va al di là appunto di quelle che sono non so, le convenienze sociali, e anche le comodità, no? E quindi Gesù con queste parole incoraggi i tuoi discepoli e anche quelli che lo possono diventare, no? Che sono invitati da te a diventare tuoi discepoli, a seguirti in modo incondizionato e a seguire te, ecco, non tanto che so, appunto, le circostanze, a centrare il loro cuore su di te, e quindi se tu non hai dove posare il capo, anche loro non avranno, no? E i tuoi discepoli. In effetti, tu stesso Gesù, ci incoraggi, cioè, perché quello che dobbiamo pensare, il Vangelo è lapidario e poi riporta pochissime frasi, no? Però possiamo pensare che Gesù nella nostra orazione, quando parliamo con lui di questo, del nostro seguirlo, e quindi tu a noi stai dicendo oggi, riguardo all'episodio, ti stai dicendo tante cose, no? Cerco di dirne qualcuna io. E nell'episodio dei Samaritani ci stai dicendo: guarda che nel seguirmi, anche nel compiere alcune alcuni incarichi che io stesso ti do, cioè io ti do l'incarico e mandò messaggeri davanti a sé, cioè l'incarico l'abbiamo ricevuto da te. Siamo andati in questo villaggio di Samaritani per preparare il tuo ingresso. Guardate che arriva Gesù di Nazareth, no? E il nostro Rambi, e stiamo andando a Gerusalemme, non so, quello che sia. E quindi l'incarico l'abbiamo ricevuto da te, che sei il figlio di Dio, eppure quello stesso incarico si frantuma, no? Non dà il risultato desiderato da noi, no? Essi non vollero riceverlo perché andava a Gerusalemme. Allora Giacomo e Giovanni dicono: Signore, mandiamo e chiediamo che scenda fuoco dal cielo. E invece Gesù li rimprovera: no, non è così che facciamo noi. E quindi ci stai dicendo: se mi vuoi seguire, devi sapere che non saranno tutte rose e fiori, cioè non è che, questo noi lo sappiamo bene per esperienza di una vita, no? Evidentemente, però ce lo ridiciamo perché a volte, anche se dopo tanti anni di vocazione, ci può scandalizzare il fatto che un incarico che ci ha dato il Signore non produca il frutto desiderato, no? Cioè, anzi, quasi quasi produca una reazione negativa, no? Ma questo è successo anche a Gesù stesso per primo, che tu, Signore, sei andato sulla croce, quindi fallimento totale, no? di un incarico ricevuto da Dio Padre, no? Dio Padre che ti manda nel mondo. E, anzi, addirittura poi si scopre dalle parole di Gesù e dalla spiegazione dello Spirito Santo che andava fatto proprio così, che le scritture dicevano così, no? I due di Emmaus che sono assolutamente sconvolti: come è possibile che sia successo questo? E invece Gesù gli spiega: era proprio questo quello che doveva succedere, no? Cioè io, questa è la logica del cristianesimo, no? Anche se forse noi non ci siamo molto abituati, perché da Costantino in poi è la religione dello Stato, quindi è diventata, come dire, la religione anche sì, diffusa, perlomeno in queste parti dove noi viviamo. E, però appunto fino a quel punto c'erano state molte persecuzioni. Noi appunto ricordiamo i primi martiri della Chiesa Romana oggi, no? E quindi i primi cristiani hanno vissuto in questo clima cristiano davvero, no? Cioè questo clima di persecuzione, no? Che li ha tenuti vivaci e vivi nella dimensione veramente, diciamo, di Cristo, della loro vocazione, no? E quindi chiediamo a te, Gesù, questa grazia di saperci identificare con te, saper guardare te, no? E quindi non guardare i samaritani che ti rifiutano, o guardare il cielo da cui debba scendere il fuoco, ma invece guardare te, appunto, si voltò e le improverò. Allora, guardando te nella nostra preghiera, noi capiamo che quella reazione da Giacomo e Giovanni che possiamo avere qualche volta non è quella di Gesù. E così anche quando i discepoli magari si accorgono, ascoltano, vedono, no, questi dialoghi, poi li riferiscono e Gesù gli stai dicendo a loro e a noi, appunto, i volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Invece e tu, Gesù, e poi forse spieghi al nostro cuore che il tuo capo è costantemente posato sul Padre. Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando Giovanni, cioè il discepolo amato, viene detto, e appoggia il capo sul seno di Gesù, no? E il Vangelo usa una frase che è la stessa che nel prologo di Giovanni viene usata per dire appunto che il figlio è nel seno del padre, no? Per cui perché tu puoi, Gesù, puoi andare in mezzo al mondo, appunto, e viaggiare, eccetera, senza avere dove posare il capo, quindi non avere una certezza umana, ecco, una casa stabile, perché sei costantemente appoggiato, cioè il tuo capo è posato sul seno del padre, e così noi possiamo anche avere questa incertezza che sempre può costare umanamente, no? Quando si tratta di fare un cambiamento, ecco, di prospettiva, di incarico, di casa, di città o quello che sia, o di lavoro professionale, o comunque quando avviene nella nostra vita un cambiamento grosso, no? Anche pensiamo, no? Ecco, anche a livello degli affetti, a livello familiare, allora ci aiuta a appoggiare il capo sul cuore di Gesù, e che ci dice: io sono il centro della tua vita, non la tua dimora, la tua casa, i tuoi affetti. Ti chiedo di donarmi tutta la tua vita, ciò che conta è la volontà del Padre mio, e io così ti darò la forza e la mia forza sarà il tuo scudo, no? Per cui puoi andare ovunque. E, cioè, puoi seguire Gesù, puoi seguirmi, ecco, anche se può sembrare che tu non abbia dove posare il capo, no? Così anche quando, sì, quell'altro che dice: permettimi di andare prima a seppellire mio padre, che è una cosa santa, evidentemente, che tutti facciamo, non solo il padre, ma insomma, voglio dire, tutti gli affetti che abbiamo, no? Li coltiviamo e li seguiamo, se è possibile, in tutti i momenti importanti della vita. Però allo stesso tempo, appunto, quando seguire Cristo può essere in contrasto con, ecco, anche con gli affetti umani buoni e santi, lì deve vincere la sequela di Cristo, no? Tu vai a annunciare il regno di Dio, cioè non ti preoccupare di quello che anche forse quando Gesù dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti, fa riferimento, se vogliamo dare una lettura spirituale, anche a questa frase, cioè alle visioni umane, no? Alle visioni umane che non arrivano a comprendere le cose di Dio e quindi insomma anche alle reazioni umane, così alle beghe umane, no? Alle invidie, alle gelosie, alle insomma così, a quelle cose lì che sono tante, sono sempre presenti. Anche quando tu dai il tuo annuncio di vita cristiana, cioè, ci possono essere reazioni un po' da morti, no? E allora lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vai avanti ad annunciare il regno di Dio, no? E questa è perché dicevo prima all'inizio, la luce della festa di San Pietro e Paolo e dei martiri cristiani, perché effettivamente Pietro e Paolo, anche con Pietro, come sappiamo, no, dal Vangelo, con i suoi, appunto con la sua visione umana, a volte, no, ma Signore, aspetta, non ti accadrà questo, aspetta. Io ti difenderò ovunque, cioè, no, ma guarda che mi rinnegherai, poi così, no? È Pietro che ha lo slancio di dire tutto quello che pensa, e così permette a Gesù di correggerlo continuamente e di scoprire quanti errori fa, eppure lo mantiene nel suo compito di essere pietra, no? Su cui edifica la Chiesa. Cioè non gli toglie quella fiducia, no? E alla fine narra anche la leggenda, no? Che se ne stava andando da Roma e, proprio in tempi di persecuzione, e Quo Vadis, no? Quo Vadis, dove vai, no? Dove vai, Pietro? E quindi se è vero, è molto suggestivo anche così, no? Anche scoprire che anche alla fine della vita era sempre lui, no? E allora lui dice: ah, veramente sì, e mi hai pescato ancora una volta, quindi devo proprio tornare a Roma, no? Ecco, quindi un po' come anche insomma, siamo ammirati di vedere che queste cose accadono anche quando accadono in positivo, no? A volte accadono in negativo, ma e recentemente appunto c'è stato quell'episodio, no? Il sindaco di Rocca di Papa che per salvare da quell'incendio, no? Cioè per salvare più persone possibili, poi alla fine è rimasto lui ustionato e così rovinato nei polmoni che poi è morto dopo qualche giorno. E questo è sicuramente è un gesto, penso, che il Signore valuterà in modo molto grande, perché è appunto questo dare la vita per i fratelli, per gli amici, ecco, quindi se questo è nobile e santo da un punto di vista anche umano, di una realtà umana come, ecco, come un edificio, la barca, no? Che uno comanda e così via. È molto valido, e sicuramente dal punto di vista cristiano, quindi il Papa o ciascuno di noi, no? Che dona la vita con la veste rossa dei cardinali, che significa sono disposto fino al sangue, no? A seguire Cristo e a servire la Chiesa, no? E quindi questa luce sì, io torno a essere impressionato dal fatto, lo dico spesso, che noi festeggiamo una tragedia, no? Cioè, quindi, che bello, no? Hanno crocifisso Pietro, no? Che bello, hanno tagliato la testa a Paolo, no? Noi non è che diciamo così, però in fondo un po' diciamo così, no? Cioè, la solennità, la festa, la grazia, no? Che riceviamo dalla morte di un santo, dalla morte di un martire, no? E questa è una logica totalmente diversa da quella terrena, no? Da quella umana. E poi è bello vedere come appunto Paolo, l'abbiamo rivisto ieri nella sua festa, no? Da come Paolo appunto leggevamo nella lettera ai Galati di ieri: vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. E voi avete sentito parlare della mia condotta un tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio, la devastavo. E poi dopo, come in effetti il Signore chiama quest'uomo anche che non aveva conosciuto in vita, no? Lo chiama lui direttamente, lo forma lui direttamente e gli dice cose che lui deve dire a tutta la Chiesa, no? E lui va e predica anche dove c'è Pietro. Per questo è bello vedere nella loro festa l'insieme, non solo l'istituzione della Chiesa, no? Pietro, ma la dimensione carismatica, no? La grazia che viene dal basso, e Gesù che poi parla a uno senza passare. Non è che Gesù ha chiesto permesso a Pietro: scusa Pietro, avrei pensato di dare a Paolo questa ispirazione, mi dai il tuo permesso, no? Mi dai una bella carta bollata in cui dici che io posso chiamare Paolo a dire qualcosa che tu neanche ti immagini, no? Che tu non hai pensato, che insomma, che poi alla fine le tue lettere saranno belle, ma insomma, non c'è confronto con quelle di Paolo. E poi arriverà Paolo a Roma, dove ci sei anche tu, e dirà le sue cose, senza che tu gli abbia dato quell'incarico, no? e Gesù lo fa e va bene così, e nella Chiesa è molto bello vedere come appunto il Papa ha l'autorità di Pietro e di Paolo, che esiste l'istituzione, esiste il carisma, no? Che dialogano, a volte litigano, come hanno litigato anche Pietro e Paolo, e Paolo l'ha rimproverato davanti a tutti, no? E tutta questa forza di fare quello che Dio vuole, nonostante le circostanze, eccetera, è molto bella, molto grande, molto santa. Noi chiediamo a Pietro, no, di tornare indietro verso Roma, se ci venisse voglia di scappare, no, perché c'è la persecuzione, e a Paolo di continuare a parlare, ecco, a dare ciò che la grazia che il Signore gli ha passato, appunto anche lui, nonostante tutti i guai che ha subito, no, tutte le persecuzioni, tutte le, insomma, i carcere, flagellazioni, eccetera, e mi pare che il loro esempio sia una bellissima luce per leggere il Vangelo di oggi, no? Queste cose che Gesù dice a quelli che lo seguono, e quindi anche a noi, con l'aiuto e la benedizione di Maria,